Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Nuovi omicidi alla periferia di Roma, freddati due uomini nella notte a colpi di pistola, erano collegati al mondo dello spaccio della droga. Il caso dell'Agenzia delle Entrate resta terreno di scontro nel governo, il PD dice Zanetti parla a titolo personale. Continua a far discutere la ricerca dell'OMS sulla carne, il ministro Lorenzin dice non bisogna farsi spaventare dalle ricerche. Le nomine del Papa. A Palermo sarà arcivescovo il parroco di Modica, impegnato nel sociale. A Bologna un prete della comunità di Sant'Egidio. Sarebbe pronto a collaborare la cosiddetta Dama Nera, accusata di essere il collettore delle tangenti ANAS. Oggi interrogatorio per l'ex sottosegretario Meduri. Inaugura ufficialmente il Museo delle Culture di Milano con una mostra di su Barbie e una su Gauguin. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, molti gli argomenti sul piatto, come avete sentito, altri ne toccheremo, ritorneremo anche sulla vicenda di Valentino Rossi e della MotoGP, tra l'altro il campione appena parlato ha confermato che dopo un attimo di rabbia sarà invece in gara a Valencia, ci torneremo tra un attimo. In apertura però il grave fatto di cronaca avvenuto questa mattina a Roma con l'omicidio di due giovani in una zona periferica della capitale. A trovarli a terra in fin di vita in una zona isolata è stata una pattuglia dei carabinieri dopo una segnalazione. Avevano entrambi alle spalle un lungo elenco di precedenti penali, soprattutto per droga. I due romani uccisi ieri sera a colpi di pistola a Ponte di Nona, estrema periferia est della capitale. Il 35enne Mirko Scarozza, colpito ad un fianco, è morto durante il trasporto in ospedale. L'uomo si trovava agli arresti domiciliari non lontano dal luogo della sparatoria. L'altra vittima, il 26enne Fabio Ventre, ferito alla testa, è morto invece poco dopo il suo arrivo al policlinico di Tor Vergata. Gli investigatori stanno cercando di accertare se i due siano stati vittime di un agguato oppure se si siano feriti a morte a vicenda, come sembrerebbe da una segnalazione arrivata al 112. Sul posto però non sono state trovate armi. Le indagini puntano soprattutto agli ambienti dello spaccio, ma al momento non si escludono anche altre piste in attesa dei risultati delle autopsie e delle perizie sui proiettili che potranno aiutare a chiarire alcuni dubbi. I militari dell'arma hanno anche effettuato diverse perquisizioni nelle abitazioni di pregiudicati della zona. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E di questa vicenda e di quanto forse il vuoto di potere della fine dell'organizzazione guidata da Massimo Carminati possa avere un impatto su queste nuove violenze che si registrano nella capitale torneremo a parlare più avanti, ma restiamo su Roma per parlare però delle questioni dell'amministrazione e su cosa può succedere nelle prossime ore. Il sindaco si dimetterà oppure no? Andrà alla conta nell'aula del Consiglio Comunale o lascerà prima? L'analisi di Daniele Biacchessi. Per il Partito Democratico la vera contraddizione si chiama Ignazio Marino. Dunque c'è un sindaco ampiamente sfiduciato dal suo partito che annuncia le dimissioni dopo numerosi scandali e inadempienze, ma si prende 20 giorni di tempo per ripensarci. E giunto a fine corsa, invece di andarsene, chiama a raccolta i suoi proseliti e promette di resistere fino in fondo. Il gruppo democratico in Campidoglio gli taglia i fili, ma è diviso sul metodo e non sa che pesci pigliare. È vero, i numeri per una giunta del sindaco non ci sono, ma per far saltare definitivamente il seggio di Marino servono 25 voti, quindi non solo quelli del PD, anche quelli delle opposizioni. E i democratici non se la sentono di votare la sfiducia insieme alle destre. E allora, senza una soluzione politica di buon senso, che a questo punto solo Renzi dovrebbe mettere in campo a breve, la contraddizione Marino potrebbe allargarsi anche a livello nazionale e minare le fondamenta su cui si regge l'esile maggioranza di governo. C'è un'altra questione politica che sta agitando la maggioranza, la vicenda dell'Agenzia delle Entrate, della quale vi abbiamo parlato diffusamente ieri. Di oggi ci sono da registrare le dichiarazioni del responsabile economico del Partito Democratico, Filippo Taddei, che dice Rossella Orlandi ha fatto un lavoro importante e serio, riferendosi alla direttrice dell'Agenzia delle Entrate, della quale il sottosegretario alle Finanze Enrico Zanetti ha chiesto le dimissioni in più di un'occasione. Padoan ha parlato per il governo, aggiunge Taddei, 2006 Zanetti ha espresso una legittima opinione personale. La vicenda, lo ricordiamo, è collegata alle nomine dei dirigenti giudicate illegittime dalla Corte Costituzionale da una serie di interventi e interviste della stessa Orlandi, nella quale ha lamentato l'impossibilità di andare avanti in questa condizione. E mentre si attende che il Parlamento inizi a lavorare sulla legge di stabilità, lo Svimez diffonde dei dati interessanti che riguardano il Mezzogiorno. Ci sono piccoli segnali di crescita, abbiamo sentito il direttore dello Svimez. I nostri dati sono che nel 2015 il Nord cresce di quasi un punto e il Sud in realtà rimane stabile perché fa più 0,1. Però devo dire che dopo 7 anni di recessione ininterrotta, speriamo che sia un elemento di tenuta, il Sud incomincia a crescere un poco di più, c'è 0,5 il prossimo anno contro 1,5 al Nord. Quindi diciamo, a una ripresa del Nord che di per sé stessa non è rapidissima, il Sud partecipa poco. Credo che però sia positivo. Il dato più preoccupante è questo fatto degli investimenti, perché ancora nel 2015, mentre il Nord riprendono a crescere gli investimenti dall'1,5%, il Sud è ancora in calo di un punto, e la situazione si peggiorerà anche nel 2016, con un Nord che incrementa di 2,5 e il Sud che ancora cala. E quindi la cosa chiara che però abbiamo evidenziato è che il maggior ostacolo alla crescita per il Sud è la prima caduta e ora non ripresa del processo di accumulazione. E ci sono altri dati interessanti che sono stati diffusi oggi che riguardano tutto il resto del paese, compreso il Mezzogiorno, e sono quelli sul risparmio. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così. L'Italia sembra ripartire. Il 2015 segnerebbe per questo un punto di svolta per le prospettive del nostro paese. Il tradizionale rapporto curato da Acri e Ipsos per la 91esima giornata mondiale del risparmio dipinge allora un paese dove ritorna la fiducia, soprattutto tra i giovani, e le prospettive personali e nazionali migliorano sensibilmente. La crisi, si legge nell'indagine, morde ancora, ma sebbene l'80% degli italiani continui a percepirla come grave e ritenga che durerà almeno altri 5 anni, spaventa sempre meno. Cresce in particolare per il terzo anno consecutivo la quota di italiani capaci di risparmiare. Nel 2015 sono stati il 37%, in aumento dal 33% del 2014, dato più alto dal 2010. È necessario restare con i piedi per terra, ricorda però lo stesso presidente dell'Acri, Guzzetti, che dice: attenzione, la crisi è ancora presente. Sentiamo. Che dalla crisi non siamo usciti, lo sappiamo tutti. Bisogna accelerare l'uscita dalla crisi e puntare soprattutto a ridurre la disoccupazione, che è il vero dato. Però in Italia, se non si eliminano 3 elementi negativi, possiamo fare tutte le riforme di questo mondo, ma la difficoltà ci sarà sempre: l'evasione fiscale, la corruzione e la burocrazia. E per chiudere, Simone, sempre dall'indagine Acri Ipsos, italiani sempre attratti dagli investimenti nel mattone, più dubbi sull'Unione Europea e sulla moneta unica. È tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. Per restare sull'economia, oggi era il primo giorno di quotazione di Poste Italiane. Il titolo è sostanzialmente invariato a 6,75 euro per azione. In questo momento cede lo 0,07%. Torneremo a parlarne ovviamente nel nostro consueto spazio dedicato ai mercati alle 13.30. Adesso parliamo di immigrazione. No registration, no rights. Niente registrazione, niente diritti, lo avete sentito abbastanza nitidamente. Il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, è intervenuto all'Europarlamento, alla plenaria. Frenare il flusso di migranti significa che essi devono registrarsi all'ingresso nell'Unione Europea e noi dobbiamo informarli delle conseguenze della mancata registrazione. Molti altri argomenti su questo tema dell'immigrazione toccati da Juncker. Ha detto che, piaccia o meno, dobbiamo cooperare con la Turchia. E poi un tema che ci interessa particolarmente e che riguarda la flessibilità di bilancio per fronteggiare l'emergenza accoglienza dei rifugiati. Come ricordate, l'Italia con la legge di stabilità ha chiesto 3,3 miliardi di flessibilità. Juncker ha detto la Commissione Europea applicherà la flessibilità, siamo di fronte ad una situazione di eccezionalità, verrà applicata paese per paese purché siano sforzi straordinari. Torniamo alla cronaca adesso, ma a quella giudiziaria. Per due vicende delle quali ci siamo occupati nei giorni scorsi e che oggi presentano degli sviluppi: la retata a Sanremo dei dipendenti assenteisti e gli arresti all'ANAS per corruzione e appalti truccati. Questa mattina una serie di interrogatori. Iniziamo dalla vicenda ANAS, per la quale spunta la volontà di collaborare da parte della cosiddetta Dama Nera. Iniziati ieri gli interrogatori delle persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta sulle tangenti all'ANAS. Il primo ad ammettere i fatti sarebbe stato Giovanni Parlato, in carcere con l'accusa di corruzione. Il dirigente ANAS, revisore contabile, ha confermato ad aver preso soldi dai proprietari di un terreno in via di espropriazione, fornendo un primo importante riscontro al sistema ricostruito dagli investigatori. A difendere Parlato è l'avvocato Giancarlo Pittelli, già senatore nelle liste di Forza Italia ed anche difensore di Antonella Acroglianò, soprannominata la Dama Nera. È lui che conferma la notizia che la dirigente ANAS sarebbe pronta a collaborare. La dottoressa Acroglianò deve avere contezza complessiva del materiale indiziario che la riguarda e quindi di conoscere fino in fondo le ragioni dell'accusa che le sono state mosse, e c'è stata una prima apertura per un futuro dialogo con la procura che sia fattivamente collaborativo, cioè vuole iniziare un discorso di ammissione di alcune responsabilità. Si tratta di una notizia che potrebbe aprire nuovi e clamorosi sviluppi, perché la Acroglianò è considerata dagli inquirenti figura chiave nella vicenda. L'incontro con i pubblici ministeri potrebbe avvenire già alla fine di questa settimana. La Acroglianò è anche uno dei 14 destinatari delle misure tra carcere e domiciliari emesse dalla magistratura romana. Tra loro anche l'ex sottosegretario alle infrastrutture Luigi Meduri, che verrà interrogato a breve, e l'avvocato calabrese Eugenio Battaglia, entrambi ai domiciliari. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 ore. Altri interrogatori, come si diceva, a Sanremo per la vicenda dei dipendenti assenteisti. Tra gli altri, sentito oggi il famoso vigile in mutande, quello che abbiamo visto tutti nelle immagini mentre timbrava il cartellino. Andrea Ferro, buongiorno. Buongiorno Simone, al Tribunale d'Imperia proseguono gli interrogatori dei dipendenti del Comune di Sanremo sottoposti a misure cautelari dopo il blitz di giovedì scorso della finanza, epilogo almeno per ora di 2 anni di indagini. Nella galleria, diciamo così, dei personaggi ripresi a timbrare il cartellino per poi andare a fare talvolta di tutto tranne che lavorare per conto del Comune, come dicevi, spicca il vigile urbano filmato in mutande. Oggi l'agente è comparso davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. Ha detto in sostanza di essersi trovato in quelle condizioni perché, abitando a pochi passi dall'ufficio, doveva fare in fretta per raggiungere il mercato, dove un furgone in sosta vietata stava intralciando la circolazione. Molti degli altri indagati non hanno risposto e non risponderanno alle domande del GIP, cioè si avvarranno della facoltà di non rispondere. Nell'inchiesta, chiamata Stakhanov, sono state messe, lo ricordo, in tutto 48 misure restrittive, 35 arresti domiciliari e 8 obblighi di firma. All'elenco vanno aggiunti altri 148 indagati, complessivamente si tratta di un terzo della forza lavoro del Comune di Sanremo, con ricadute pesanti sull'operatività degli uffici. Da venerdì alcuni osservano orari ridotti. Le accuse contestate sono falso e truffa aggravata ai danni dello Stato. Va detto anche che per alcuni indagati era scattato il premio di produttività per quanto fatto nel 2014, cioè mentre i finanzieri li stavano tenendo sott'occhio. L'inchiesta della Procura d'Imperia intende accertare se esistono anche responsabilità da parte di chi, consapevole del malcostume dilagante, non ha denunciato le cattive abitudini dei colleghi. E per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie ad Andrea Ferro. E per rimanere sui temi del pubblico impiego, è notizia di pochi istanti fa, appena battuta dalle agenzie, che circa 2.000 dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono usciti dagli uffici e hanno protestato nei cortili e nei corridoi della sede del Ministero. Lo dice il segretario generale di un sindacato, Confsal UNSA, che è il sindacato rappresentativo dei ministeri. La protesta parte da tutte le RSU ed è contro il blocco del salario accessorio e del contratto. Sono arrivate due nomine per due importanti arcidiocesi italiane, a Palermo e Bologna, in arrivo sostanzialmente dei preti di strada. Una scelta che si inserisce pienamente nel solco del pontificato di Francesco. Dopo la porpora concessa a presuli di popolo, ora le nomine per molti aspetti rivoluzionarie per due importanti diocesi, quella di Palermo e quella di Bologna. Nel capoluogo siciliano, sede tradizionalmente cardinalizia, arriva un prete di strada. Il nuovo arcivescovo, dopo il dimissionario Paolo Romeo, è Don Corrado Lorefice. Teologo, 53 anni di Modica, Don Corrado è da 25 anni in prima linea nella lotta al racket della prostituzione, da sempre impegnato a sostegno degli emarginati e degli ultimi. Come Matteo Zuppi, sarà lui a guidare la diocesi di Bologna dopo i conservatori Giacomo Biffi e Carlo Caffarra. Ex parroco di Trastevere, vescovo ausiliare di Roma, Zuppi, 60 anni, da sempre impegnato per i senza tetto alla comunità di Sant'Egidio. Un altro tassello, queste nomine, della riforma di Francesco per una chiesa del servizio. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo l'apertura di primavera, l'inaugurazione ufficiale del MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, abbiamo in diretta la nostra Adriana Fracchia che è là e ci racconta un po' che cosa dobbiamo attenderci. Adriana, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Come hai detto tu, dopo l'apertura di fine marzo che era a supporto di Expo 2015, oggi l'apertura ufficiale al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, che si inaugura oggi con la collezione permanente. Nelle quattro sale al primo piano saranno esposte 200 opere delle circa 8.000 della collezione permanente del MUDEC, appunto, tra oggetti d'uso, tessuti, strumenti, tutti provenienti da varie parti del mondo e databili tra il 1200 avanti Cristo e il 900, ma poi anche varie mostre, in particolare ricordiamo quella dedicata a Barbie, che ha fatto già discutere nei mesi scorsi, suscitando un po' di polemiche. La mostra è dedicata alla più famosa bambola della storia. Da oltre 50 anni le bambine di tutto il mondo ci giocano e quindi potranno vedere qui Barbie, icona di stile, così il titolo della mostra, ma anche Gauguin, racconti dal paradiso, circa 70 opere provenienti da 12 musei e da collezioni private. È veramente una chicca, perché ci sono opere di Gauguin che difficilmente possiamo vedere. E poi ancora sì, altre attività. Ricordiamo che il MUDEC comunque avrà attività di laboratori, anche soprattutto dedicate ai bambini ma anche agli adulti. Quindi domenica 1 novembre, ricordiamoci, sarà la festa di chiusura di Expo. Il MUDEC sarà un po' il fulcro della città, si potrà venire qui, l'ingresso sarà gratuito e tutti i cittadini sono invitati a venire. Grazie alla nostra Adriana Fracchia per questo racconto del MUDEC. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Poi abbiamo molti argomenti di cui parlare, dobbiamo ritornare sulla vicenda della ricerca dell'OMS sulla carne, che continua a far discutere. Ne parleremo anche con gli industriali del settore per cercare di capire che cosa si aspettano nei prossimi mesi dopo tutto quello che è uscito dal punto di vista delle vendite. Parleremo dell'omicidio stradale che approda oggi in aula, in Parlamento, e vediamo che cosa contiene questa ipotesi di provvedimento. E poi abbiamo da parlare di Valentino Rossi, che dice, l'ha detto poco fa su Twitter, è passata l'incazzatura, a Valencia ci sarò, testuali parole, non sono parole mie. Traffico a tra poco. Stufe e caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: alla periferia di Roma, nuovi omicidi, sono stati freddati due uomini nella notte a colpi di pistola. Il caso dell'Agenzia delle Entrate resta terreno di scontro nel governo, il PD dice Zanetti parla a titolo personale. La protesta dei dipendenti del Ministero dell'Economia, in 2000 nei corridoi e nei cortili contro il blocco dei contratti. A Sanremo il vigile accusato di assenteismo si difende: ho timbrato in mutande perché ero di fretta, dovevo andare a fare una multa. Valentino Rossi scrive su Twitter: è passata l'incazzatura, sarò al Gran Premio di Valencia. Ed eccoci di nuovo, saluto Nicola Levoni, che è presidente di ASSICA, l'associazione delle industrie carni e salumi. Buongiorno Levoni e benvenuto. Buongiorno. Vi ha un po' spaventati questa ricerca dell'OMS, dico soprattutto in termini di rischi per le vendite future, diciamo? Ma sicuramente c'è una preoccupazione del nostro settore, perché il comparto della salumeria è uno dei settori importanti dell'agroalimentare italiano ed è quello su cui si punta anche per aumentare l'export del Made in Italy. Quindi Questa notizia, che appunto è generalizzata e a livello mondiale, sicuramente ci preoccupa. Ci preoccupa anche perché le notizie negative sono sempre quelle che fanno più rumore rispetto alle notizie positive. E poi, quando diamo notizie positive sui nostri salumi, sulle nostre carni, come abbiamo fatto di recente con le analisi dei valori nutrizionali, magari hanno fatto meno rumore di questa notizia. Però cogliamo l'occasione per dare sempre informazioni positive ai consumatori, perché credo si trovino molto in una situazione di confusione nel ricevere certo. queste informazioni. Infatti volevo portarla proprio su questo, perché anche su questo tema, come dire, forse complici anche noi della stampa, insomma, l'abbiamo caricata un po' troppo, forse, rispetto a quello che effettivamente è questa ricerca, secondo lei? Ma guardi, abbiamo letto in questi giorni tutto quello che usciva sia su stampa che su internet, che con altri mezzi. È ovvio che il clamore è tanto. Noi dobbiamo dare informazioni che tranquillizzano, dobbiamo darle sia ai nostri consumatori ma anche al trade, che ha rapporti con i consumatori, perché anch'essi hanno bisogno di rassicurare la signora che magari va a fare la spesa e si rivolge chiedendo informazioni su quello che ha letto proprio nel punto vendita, e quindi questo è fondamentale. È ovvio che la ricerca si basa su un'indagine mondiale su consumi che anche a livello di numeri non sono gli stessi consumi che abbiamo noi in Italia. Addirittura l'indagine si basa su 50 grammi, che è il consumo esattamente il doppio di quello che consumiamo noi italiani. In più noi italiani abbiamo una dieta variegata, abbiamo la dieta mediterranea, quindi uniamo verdure, uniamo la frutta, uniamo i carboidrati al consumo di carne. Non è un consumo di carne. Infatti anche l'indagine dell'OMS dice l'eccesso può causare problemi. È ovvio, se uno mangia in continuazione solo un singolo prodotto, probabilmente può creargli problemi, soprattutto nella fase digestiva. Io non sono un tecnico di questo, perché è chi si occupa della salute umana che sicuramente ha risposte più esaustive su questo, però è vero che una dieta equilibrata, un buon movimento, quindi non la sedentarietà, è quello che aiuta a assorbire la parte buona di quello che possono dare sia le carni che i prodotti trasformati di carne, e quindi sto parlando di proteine, sto parlando di vitamine, sì, sto parlando di sali minerali, nutrimenti che lo stesso OMS dice che sono fondamentali in una dieta equilibrata, certo, ovviamente con le giuste proporzioni. Io credo che nella realtà italiana noi le proporzioni, nella maggior parte dei casi, le rispettiamo, le stiamo utilizzando e le rispettiamo. La ringrazio, grazie a Nicola Levoni, presidente di ASICA. E a proposito di esperti più strettamente sui temi clinici e non solo, vi ricordo che potete andarvi a scaricare per esempio il podcast di Cuore e Denari di oggi, o anche Effetto Note di ieri. Hanno ospitato degli oncologi proprio per avere maggiori dettagli su tutto questo. È approdato, errore mio, non oggi ma ieri, il provvedimento sull'omicidio stradale in Parlamento. Abbiamo in studio con noi Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, che molto si occupa di queste cose. Maurizio, bentornato. Grazie, buongiorno. Che cosa contiene? Contiene appunto l'istituzione di questo nuovo reato, perché le attuali pene previste per l'omicidio colposo, anche se c'è un'aggravante specifica per l'omicidio colposo commesso violando il codice della strada, sono ritenute basse. Quindi questo provvedimento cosa fa? Istituisce questo nuovo reato con pene più alte rispetto all'attuale omicidio colposo aggravato, e però tutto questo potrebbe causare un problema di costituzionalità, lo si sapeva, lo si sa da anni, ed è stato adesso, proprio anche pochi giorni fa, ribadito dal Servizio Studi della Camera, proprio nel dossier che supporta il lavoro dei deputati in questi giorni. Un lavoro che dovrebbe chiudersi entro la fine della settimana prossima, perché c'è un accordo, e quindi nonostante queste osservazioni appunto del Servizio Studi, sono spesso insomma politica, non tiene conto della tecnica, e quindi probabilmente il provvedimento arriverà in porto appunto entro la fine della settimana prossima, per un passaggio poi definitivo al Senato entro fine anno. Dopodiché la palla passerà, temo, alla Corte Costituzionale, perché chi si vedrà condannato per omicidio stradale avrà tutto l'interesse a fare ricorso. Quanto rischia? E dunque rischia dai 3 ai 10 anni se viola, diciamo, se lo commette in stato di ebbrezza medio, che è una cosa abbastanza diffusa. La pena base resta dai 2 ai 7 anni se viola una qualsiasi norma del codice. Poi appunto si passa dai 3 ai 10 anni se c'è un'ebbrezza media. Poi pene ancora superiori sono previste quando l'ebbrezza è grave o c'è di mezzo la droga. La novità che è stata introdotta in questo ultimo passaggio alla Camera è che per l'ebbrezza media, per questo io mi soffermavo particolarmente, la pena è stata un po' diminuita rispetto a quello che era il precedente testo approvato dal Senato, però in compenso sono state introdotte altre fattispecie di infrazione. Cioè, mentre prima questa pena si applicava soltanto per ebbrezza media, adesso si aggiunge il passaggio con rosso, l'inversione di marcia su dossi, curve, incroci e attenzione, la velocità nel senso che fuori città basterà eccedere il limite per più di 50 km all'ora e si andrà dentro questo reato. Potrà succedere sia pure con una graduazione maggiore in città. Ovviamente sarà difficile accertare poi la vera velocità a cui si procedeva, insomma non sarà facilissimo da applicare. Ti ringrazio, grazie a Maurizio Caprino del Sole 24 Ore. E noi in qualche modo continuiamo a parlare di velocità e continuiamo a parlare di ruote, perché torniamo ad occuparci della vicenda di Valentino Rossi e di Marc Marquez, di questo scontro sulla pista. Tutti noi abbiamo visto, vi ho riferito poco fa delle dichiarazioni di Valentino Rossi rilasciate su Twitter, tutti noi abbiamo visto probabilmente in giro le foto di Marc Marquez bambino accanto a Valentino Rossi che gli chiede un autografo, era una sorta di mito. Ebbene, noi oggi in queste giornate di attesa e di visione di filmati abbiamo deciso di dare un'occhiata alle grandi rivalità sportive che hanno contrapposto giovani e vecchi. Il vecchio è il giovane, il grande campione e la stella nascente, il figlio che uccide il padre. Il velenoso scontro tra Rossi e Marquez, cresciuto a infinito dibattito, non è nuovo nello sport. C'è sempre stato un ragazzo dispettoso che si trova a fare i conti col suo mito. Un mito che diventa cattivo perché non vuole dargli strada, riconoscere che il suo dominio è finito, perché lo sport è feroce, pieno di spigoli e rancori. Come Marquez, che aveva il poster di Valentino da ragazzo, anche McEnroe aveva in camera quello di Borg, già immenso campione negli anni Ottanta. Borg era il re, ma Mac se ne fregò e con i suoi sberleffi detronizzò lo svedese. Anche il ciclismo racconta questi duelli. Coppi che spodesta Bartali, Saronni, Moser, Pantani, Chiappucci. È una legge non scritta, se sei giovane e vuoi vincere non devi aver rispetto. E il vecchio campione reagisce male perché sente arrivare la fine. Un po' come Zidane, che dando una testata perse la testa. Proprio lui, capitano mio capitano, buttò via la sua leggenda. Chi aveva ragione? Nessuno lo saprà mai. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci sentiamo tra un attimo per i mercati, tra l'altro con l'aggiornamento sull'andamento di Poste Italiane, oggi primo giorno a Piazza Affari. Poi ci ritroviamo appunto dopo l'appuntamento con i mercati nella seconda parte della trasmissione. Torneremo su questo episodio di cronaca nera a Roma con questi due morti uccisi a colpi di pistola collegati al mondo dello spaccio della droga. Tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I titoli: Juncker apre alla flessibilità di bilancio per i paesi che gestiscono l'emergenza profughi, Salvini attacca, una vergogna, un esempio di mondo al contrario. In periferia di Roma, a Tor di Nona, nuovi omicidi, sono stati freddati due uomini nella notte a colpi di pistola. Il caso dell'Agenzia dell'Entrata resta terreno di scontro nel governo, il PD dice Zanetti parla a titolo personale, l'opposizione chiede che l'esecutivo riferisca in aula. La protesta dei dipendenti del Ministero dell'Economia, in 2000 nei corridoi e nei cortili contro il blocco dei contratti. A Sanremo il vigile accusato di assenteismo si difende, ho timbrato in mutande perché ero di fretta, dovevo andare a fare una multa. La borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, torniamo a parlare della notizia che vi abbiamo dato in apertura di trasmissione, ossia il duplice omicidio avvenuto nella notte a Roma, a Tor di Nona. Siamo in periferia, due giovani uccisi a colpi di pistola, uno di 35 anni, uno di 26 anni, e tutto sarebbe collegato al mondo dello spaccio di droga. Saluto Federica Angeli, cronista di Repubblica, che torna da noi. L'avevamo intervistata perché tra l'altro minacciata per le sue inchieste su Ostia e sotto scorta. Federica, bentornata, ciao. Buongiorno. Buongiorno. La prima domanda che ti vorrei fare è una domanda, se vogliamo, un po' più di approfondimento. Vorrei capire se la fine, per così dire, della cosiddetta mafia capitale, del gruppo guidato da Massimo Carminati, ha portato a una sorta di rompete le righe che porta a episodi di violenza di questo tipo, insomma una serie di omicidi un po' più diffusa. Guarda, io me l'aspettavo, dopo un momento diciamo di calma piatta in cui appunto c'è stato quel vuoto, no, di potere, perché se tutto il mondo di sotto, per usare appunto le parole di Carminati, era governato insomma o comunque sotto la sua supervisione, diciamo, è ovvio che nel momento in cui manca un punto di riferimento importante saltino gli equilibri, e quindi io prima o poi me l'aspettavo, facendo cronaca nera da 20 anni, che si ricominciasse a sparare. Ed ecco infatti che qualche giorno fa la gambizzazione ad Ostia, stanotte il duplice omicidio, e sono, diciamo, quelle che proprio in gergo giornalistico chi fa nera lo sa, si chiamano piccole guerre per riappropriarsi del territorio. Questi due personaggi non sono, diciamo, di uno spessore criminale di alto livello, non stanno in batterie di camorra, 'ndrangheta, però comunque gravitano intorno allo spaccio di stupefacenti, che è uno dei business della malavita, naturalmente, no? Sì, c'è un po' in quello che ci dici, un po' quello che abbiamo raccontato nelle settimane scorse, che ha riguardato per qualche giorno Napoli, ossia questa sorta di guerra, nel momento nel quale sono stati decapitati alcuni clan camorristici, si è scatenata una guerra anche solo per piccole piazze di spaccio, persino per una panchina. In sostanza è questo. È proprio fisiologico, diciamo, in termini appunto di cronaca nera, che questo accada. E io me ne aspetto ancora, perché ovviamente la piazza, tolti i due quartieri, diciamo Ostia e la parte della Romanina governata appunto dai clan nomadi, dei Casamonica e degli Di Spada, negli altri sono saltati un po' questi equilibri, anche perché non solo mafia capitale, ma ci sono state anche tante retate, per esempio al Quadraro con il Senese, quindi la Camorra, nella parte sempre est della città ancora grandi blitz di 'ndrangheta, quindi stanno decapitando, diciamo, i boss, no? La parte più importante, diciamo, della malavita, a un livello superiore rispetto a questi due morti della scorsa notte, e questo inevitabilmente scatena ciò che è successo la scorsa notte e le gambizzazioni. Io spero che, diciamo, il passo in più sia per gli inquirenti avere un quadro un po' più netto, no, delle divisioni territoriali, e quindi che si possa risalire facilmente, no, ai clan, ai piccoli clan, chiamiamole bande, ma non per diminuirne o sminuirne l'importanza, però sicuramente anche loro prima o dopo avranno un padrone, no? C'è il rischio, Federica, dall'altra parte, che tutto questo sia molto meno controllabile, cioè nel momento nel quale si parla di un grande clan che controlla una vasta porzione di territorio, ha interessi economici molto vasti, per gli inquirenti è più facile colpire, evidentemente. Invece avere il controllo di questa situazione, oltre a richiedere un controllo del territorio molto più stretto, che in una città vasta come Roma è piuttosto difficile, come dire, per gli inquirenti è più difficile agire. Assolutamente, e non solo, tra le bande criminali ovviamente c'è come dire, la necessità, passami il termine brutto, però insomma la necessità di far vedere chi è più forte, e quindi questo comporterà per noi che raccontiamo comunque questi episodi un'ondata di grande violenza, quindi c'è omicidi, gambizzazioni, perché naturalmente come ci si appropria di un quartiere? Imponendo la propria forza, e chi è il più forte? Quello che fa più vittime, quello che riesce a intimorire di più. Quindi potremmo appunto a breve assistere, anche se secondo me già ci siamo dentro a questa fase, appunto a un'esplosione, no? Nei vari quartieri di questi piccoli boss che vogliono, diciamo, fare il salto di qualità. Ti ringrazio, grazie a Federica voi. Angeli, cronista di Repubblica, per essere stata con noi, averci aiutati a dare un quadro della situazione. Speriamo che non sia davvero così. Comunque, tant'è, questo è il racconto. Ci fermiamo, c'è il traffico. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.